Arrivati finalmente. Oh Cristo, ecco qua, perfetto. Si sapeva che doveva andare storta qualcosa, ma se qualcuno ci prende... Walter, passagli quella... un asciugamani. Quella cosa per asciugare a Ciccio. Comunque, benvenuti ascoltatori di Clandestino Cid. Siamo tornati oggi in un'insolita giornata, martedì. Clandestino si è spostato a martedì perché credevamo fosse il giorno che ci portava male e invece no, anche oggi ci sono stati problemi con la radio. Quindi siamo noi, c'è qualcuno che ci vuole male, Ciccio, non lo so. Il vino è caduto, quindi... Amo ditta la missa rupur. Esattamente, quindi qualcuno ci vuole veramente male. E purtroppo... non ci vuole, questa qua è... Continuiamo con l'ascolto di questo pezzo degli Yes Roundabout, un pezzo dell'album Fragile. E ritorniamo subito. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Si ritorna, come abbiamo detto, la messa al maiale è stata detta questa sera, il buon novello 2014 sul mio PC. Sicuramente sono stati loro. Allora, che dire, Peppe, questa 45esima Clandestino Cid, se qualcuno è in linea, cioè che batte un colpo. Bussate. Noi iniziamo subito con la notizia della settimana. Avvistato esemplare ferito di cicogna nera, Peppe, riusciva a volare malgrado zampa penzolante, ricerca della Lipu. Alla Lamezia Terme, Peppe. La povera cicogna, Ciccio. Ti sento basso te, però. Sono basso, ma ora sono alto, troppo. Va bene, Peppe, va bene, io mi sbaciucchio questo microfono. Niente, Peppe, una puntata sicuramente tutta da scoprire. Avremo anche, ormai affermata e ripartita al 100%, la nostra rubrica intervista con l'artista. Niente, Peppe, tutta buona musica qui su Fuori Onda Radio, 22:30, Clandestino Cid. Vai, Peppe. Ascoltiamo un pezzo di Jeff Buckley. Why are these ugly? Che voce, Peppe, che voce! Sì, il grandissimo cantante Jeff Buckley, da... morto precocemente. Precocemente, sì, affogato, giusto, Peppe? Sì, si è allontanato nel laghetto e non è più tornato. Da dire che da recensioni fu considerato, è considerato uno dei remita del rock, Peppe. Jeff Buckley, tutto quello che toccava con la sua voce diventava oro, e beh, non possiamo che darne ragione, Peppe, non soltanto, ma sottolineare questa cosa, perché comunque è stata un vate sicuramente della musica rock degli anni 80, aprendo 90, sì. Vabbè, fine. Sì, 90, diciamo, incastonandosi anche non soltanto nel genere stesso rock, ma anche del grunge. Beh, sì, possiamo dare dell'eccezione grunge anche a Jeff Buckley, figlio di Tim Buckley, famoso. Allora, Peppe, niente, cominciamo con i saluti, salutando Marco, Maria Fortino, che fra non molto ripartirà con la sua trasmissione, e anche Giuseppe Mercuri, che ci ascolta da Petronà, ricordando uno dei più grandi sommelier della costa ionica. E le notizie del giorno sono tante, magari se abbassi un po' il sottofondo, Peppe. Dicevo, le notizie del giorno sono tante, Peppe. Io partire subito con la nostra pagina della Green Economy. Il tutto ci arriva dal Politecnico di Torino, Peppe, dove dei ragazzi hanno trovato un progetto che sembra quanto funzionante per quanto riguarda l'inquinamento dei mari dovuti al petrolio, Peppe. Utilizzando il brevetto ESA a deployed tensile grid structure exchange for space application, i cinque studenti hanno riconsiderato l'applicazione in una struttura dispiegabile rigida che non utilizza giunti meccanici, Peppe, impiegato attualmente in campo aerospaziale come antenna, in maniera tale da utilizzarla come enti contenimento da caricare a bordo delle navi per limitare l'espansione in mare di eventuale sversamento di petrolio, Peppe. Il sistema è in grado di passare dallo stato chiuso a quello aperto e attiva in meno 30 minuti, aumentando il suo volume di oltre 12 volte. Questa caratteristica lo rende particolarmente interessante per le navi da commercio adibite ai trasporti di liquidi inquinanti, poiché ridurrebbe il tempo di intervento nel contenimento dello sversamento, azzerandone quasi completamente il forte impatto ambientale. E sempre per rimanere in questa magnifica pagina, Peppe, non farci mancare niente qui su Clandestino, andiamo a vedere la classifica delle migliori e le peggiori regioni italiane, Peppe. Penso allora, che all'ultimo posto ci sarà qualcuno, forse sì. Allora, partiamo dal primo posto del Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, nono posto ed Elimia Emilia Romagna al decimo posto, Peppe, Marche al secondo, Toscana al quinto, Umbria al settimo e tre del Mezzogiorno, la Calabria addirittura all'ottavo posto, Peppe. Addirittura, sì, io pensavo l'ultimo. Questa classifica delle regioni italiane, combinando 21 indicatori di performance riguardanti i principali settori indicati dalla Green Economy, Peppe, energia, imprese, edilizia, prodotti, agricoltura, turismo, trasporti, mobilità e rifiuti, e mettono la Calabria all'ottavo posto, secondo me c'è qualcosa da rivedere, però vabbè, Peppe, voglio dire, c'è anche il perché della nostra regione. L'ultima è la Sicilia, Peppe, lista nera. Ha ottenuto purtroppo l'ultimo posto in tre indicatori: risparmio energetico, certificato, qualità ambientale delle organizzazioni e raccolta differenziati, con appena il 13,4%, Peppe. La Calabria ottavo posto, Peppe. Vabbè, ricordiamo che siamo... Siamo nella lampadina d'Italia, Peppe, con il 70% di plus ultra rinnovabile, a voglia, Peppe. Noi produciamo, noi siamo una fabbrica di energia. Noi produciamo, Peppe, produciamo, e questa sera vogliamo produrre anche tanta buona musica. Il buon Peppe ci ha preparato una scaletta delle migliori e direi di passare subito con il prossimo pezzo. Volevo dare un piccolo annuncio, abbiamo pubblicato, se non riuscite ad ascoltare, quindi... Quindi è inutile. È inutile che lo dico. Comunque c'è il link sulla pagina Facebook dell'evento per aprire con VLC. E lo spalmiamo anche sulla pagina Twitter di Fuori Onda Radio. Andiamo con il prossimo pezzo, Ciccio. Un pezzo che a me piace molto. Un pezzo dei Rage Against the Machine. A me mi piace assai. A me mi piace assai. We'll be right back. which are American dreams. All of which are American dreams. Ciccio, con VLC lo apri. Scaricalo e poi aprilo con VLC. Vabbè, lo farò. Allora, questo pezzo, ricordiamo il ventennale di questo album, Ciccio, l'omonimo album dei Rage, che come ci diceva il buon Italo è stato ristampato con un vinile per l'occasione del 20° anno. Ricordiamo che i Rage si sono riuniti dopo lo scioglimento, però dopo si sono sciolti di nuovo senza produrre nuova musica, quindi... Ci dispiace, Ciccio, che non suonano più insieme a un gruppo del genere. Oh, ma... dobbiamo dire pure una cosa, Peppe. Riguardando un po' la carriera dei vari componenti, che il cantante, se non sbaglio, e il batterista hanno continuato insieme. Hanno continuato in un progetto che si chiama One Day as a Lion. Invece gli altri? Gli altri, prima Ciccio, anche il batterista, il bassista e il chitarrista, dopo lo scioglimento si sono uniti a Chris Cornell e hanno formato gli Audioslave. Beh, è da dire che adesso invece Chris Cornell se la passa molto bene, no? E Chris Cornell è tornato con i Soundgarden dopo che si sono sciolti e vanno avanti e indietro, sì. Vabbè, ricordare che adesso From the Clean e l'altro non è più la stessa cosa. No, ormai sono passati i Soundgarden, non sono più loro. Salutiamo tu. Salutiamo Rino pure. Rino sì, che disegna sulle cartellamenti. Niente Peppe, una notizia veramente sconvolgente, indovinello, che è il nuovo direttore del Fatto Quotidiano. Gesù? No, Marco Travaglio. E non era già lui, Gesù? No. Chi era? Non lo so, cioè non lo leggo il Fatto Quotidiano. Nemmeno io, però è una notizia che magari, vedi, ultimamente ci sono stato sul Fatto, ho visto il video del prete del mio paese che ha denunciato i vari governi e i vari presidenti in carica, quindi mi è andato di cogliere questa palla al balzo. Aperta notizia ancora più credibile da front pagina, Peppe, che il 2 febbraio si è chiusa la caccia per te, che ormai sei arrivato un culturista del green. Io sono malato, sì. Bilancio tragico per gli animali, Peppe, non era una novità naturalmente. Ci sono stati ben 88 le vittime umane registrate da settembre 2014 al 29 gennaio 2015. È un rapporto, Peppe, del 78,8%, 22 morti e 66 feriti, sì. E fra l'altro, Peppe, ho voluto condividere anche questa notizia fra fauna selvatica e fauna domestica. E niente, Animali Aidea denuncia nel 2014 mangiati in Italia oltre 6.000 gatti, Peppe. Mario, sì, somiglia tanto a Mario. Mario, salutiamo Mario che non c'è più. Uccisi fra i 6.000 e 7.000 gatti in Italia, e correva la leggenda, non lo so, dei gatti proporzionati a conigli, Peppe, un sapore del tutto nuovo. Mi ricordo comunque anche delle storie dei vecchietti del mio paese che mi raccontano che comunque in tempi un po' più in là, Peppe, ai tempi della guerra, Ciccio. Sì, il gatto era comunque un ottimo alimento, e bisogna ricordare che la cottura non è qualcosa che possono fare tutti, Peppe, del gatto. Non lo so, Ciccio, gatti non ne ho mai mangiato e non credo che ne mangerò mai. Mario che è sparito, ricordiamolo, grazie. E va bene, Peppe, partiamo ancora con la prossima canzone, dopodiché daremo spazio alla nostra rubrica intervista con l'artista. Questa sera il nostro amico, già ospite qui a Fuori Onda Radio, Carmine Tortia. Volevo mandare un pezzo di un'altra artista emergente prima di mandare l'intervista di Carmine. Un pezzo di Flavio Lisotti, Federico. Sì, vabbè, ricordiamolo. Comunque Flavio ha scritto questo pezzo in onore della memoria di Federico Aldrovandi, vittima di Stato, Peppe. Esattamente. Ci ricolleghiamo con Know Your Enemy. Conosci il tuo nemico, sì. Tuo nemico che si nasconde alla divisa. Alla divisa. Ama le armi e le usa pure. Andiamo con questo pezzo. Buongiorno a voi signori della corte, premetto a tutti, io sono innocente. Non c'ero o dormivo, ero distratto, ma in ogni caso io non c'entro niente. Giuro vostro onore, mano al petto, che non ho alzato neanche un solo dito. E se l'ho fatto avevo una ragione pertinente. Rifiutato il comodato. Questa sera per la nostra rubrica Intervista con l'artista abbiamo un ospite gradito ormai al di Clandestino Cid, perché è già ospitato in altre puntate, è sempre lui che ci fa compagnia, è il nostro amico Carmine Porcio. Buonasera, Carmine. Ciao amici di Clandestino Cinque. È Come va? bello, tutto bene, tutto bene. È bello riaverti di nuovo qui su Fuori Onda Radio, questa radio indipendente che, data la rubrica di Clandestino Cid, intervista con l'artista, dà il giusto spazio, diciamo, a chi voce purtroppo in questo panorama musicale e artistico ne ha poca perché, comunque si va dove va il vento, ma non è quello giusto, diciamo. Intanto, grazie a voi per la disponibilità e per lo spazio che vi volete dedicare, è sempre un piacere ritrovarci. Allora, cominciamo con dire chi è Carmine Torchia. Penso di essere uno che scrive canzoni, aforismi, che vuole bene ai poeti, ai musicisti, ai cani, ai bambini, insomma, tutta una serie di cose che fanno parte del mio mondo e del mondo di parecchie persone. E sono sostanzialmente un cantautore che nasce prima come musicista, infatti inizia a suonare negli anni 90, quando impera il grunge. E quindi nel tempo poi ho continuato a suonare in giro, fare concerti, ho cominciato a scrivere delle cose mie e oggi insomma produco i miei dischi e vado in giro a suonarli. Quando per la prima volta hai cominciato a produrre qualcosa di tuo? Cioè, la domanda è questa: inizi prima con delle cover e dopo successivamente passi alla produzione propria? Sì, solitamente funziona così, uno inizia a suonare nella band del proprio paese, inizi a misurare con quelli che sono i tuoi riferimenti, i mostri sacri del rock and roll, i Floyd, i Beatles e tutta una serie di gruppi del progressive, della psichedelia. Poi però credo che sia naturale sentire l'esigenza proprio di esprimere quelle che sono le tue idee. E allora cerchi di trovare una strada tua, un codice linguistico tuo, che inevitabilmente è influenzato da quello che è il tuo bagaglio. Dire chi influenza Carmine Torchia a livello musicale e artistico. Ma su tutti credo che siano i Pink Floyd che continuo ad ascoltare e a innamorarmi. Che mi fanno innamorare ogni giorno di quel tipo di suggestioni, insomma, molto psichedeliche. Poi è anche vero che io faccio canzone, quindi è un formato un po' diverso da quello dei Floyd, però poi alla fine, se vogliamo, è sempre musica pop, è sempre una musica che uno cerca di trasmettere alla gente. Poi altri riferimenti ce ne possono essere, qualcuno li può anche scovare. Io penso che i cantautori della prima scuola, come Luigi Genovesi, oppure anche se vogliamo, quelli del teatro canzone, Gabber o del cabaret come Iannacci, insomma, sono innamorato di tutto quel tipo di mondo lì. Poi è chiaro che la canzone di oggi risente anche di suoni pure diversi. Se qualcuno mi affianca anche a gente come, non so, come Max Gazzè oppure Niccolò Palli, io penso che forse un po' di influenza in effetti c'è. Parliamo adesso dei tuoi lavori, Carmine. Quindi tutte queste influenze le ritroviamo con il tuo primo album? Sì, nel primo album ci sono inevitabilmente, anche se sono più nascoste. E ovviamente i primi dischi sono sempre più acerbi e quindi hanno anche delle ingenuità che magari poi col tempo ti perdoni. Era un disco diciamo più rurale rispetto a quello che invece è stato il secondo, che è bene, che invece risente molto del fatto che ho vissuto in delle grandi città tra il primo e il secondo disco, quindi prima Roma, poi Milano, quindi è una scala urbana anche diversa che diventa anche lo sfondo delle storie che poi uno racconta. E il tuo primo lavoro prende il nome... Qual è il nome? Sì, si chiama Mi pagano per guardare il cielo. Come mai questo nome? Perché... È un nome che secondo me è dovuto a una delle canzoni che forse più rappresentative di quel lavoro lì, cioè che è L'astronomo. E allora mi piaceva l'idea appunto di equiparare diciamo il mestiere dell'astronomo che a quello di qualsiasi altro tipo di passione. Cioè secondo me l'astronomo è uno di quelli che mantiene fede a un sogno infantile. Spesso e volentieri chi fa questo tipo di lavori è perché da quando era piccolo si chiedeva delle cose, si poneva delle domande a cui voleva trovare delle risposte. E allora è l'augurio che io ho fatto, che faccio e che mi faccio, è quello che ognuno nel proprio piccolo possa essere un astronomo nella propria vita, cioè essere innamorato di quello che si fa. Sono molto belle le tue parole, Carmine. Sicuramente io che ho avuto la fortuna di ascoltare i tuoi lavori e mi era sembrata una cosa non strana, ma sicuramente ho sottolineato il fatto di trovare anche l'astronomo nel tuo nuovo lavoro, quello del 2013, bene. Sì, sì, quello poi è stato un incidente di percorso, perché in effetti quando si è lavorato al secondo disco, quindi parliamo del 2012, quando abbiamo iniziato la produzione appunto del disco, i miei collaboratori che erano appunto i musicisti con cui suonavo, quindi Roberta Cartisano e Pepe Pompugno, mi hanno continuato a corteggiare anche in maniera minacciosa, dicendo: ma perché non riprendiamo l'astronomo che è un bel pezzo, magari gli proviamo un vestito nuovo. E in effetti poi devo dire che hanno avuto ragione, perché abbiamo trovato secondo me la quadratura del cerchio che magari nel primo disco non era stata raggiunta. Visto che è più volte nominato e ricercato, adesso ce l'ascoltiamo e dopodiché riprenderemo un'intervista da qui parlando del tuo nuovo lavoro, bene. Per gli amici di Contestino Kid, passa Carmine Torchia, L'astronomo. Comincia con un solo, è ingenuo perché la storia dell'astronomo, mentre gli altri sistemano le pietre per fare i pali di una porta senza rete. Mentre corrono dietro al pallone con occhi inferociti, accaniti nel farsi notare per conquistare le ragazze già cresciute. E quando guardando su la notte brilla coi suoi diamanti, l'astronomo punta il blu con il suo cuore che s'affatica e accende i ticchettio mentre si sperde nell'infinito. Pensa qualcosa lui e dice: è questa la vita. La notte buia sul foglio chiaro dove campeggia la geometria, la notte è tutta da misurare, verificarne la simmetria. Ora che il mondo si è spento un po' e dorme sogni, ora è il momento di calcolare le angolazioni, di calcolare il firmamento. Continua con i sempre più frequenti perché la storia dell'astronomo, mentre sua moglie razionale pensa al prezzo nazionale delle zucchine e lui a spingere il carrello non ci pensa lontanamente alla spesa, alle stelle invece sì, lontanamente posizionate. Che strana gente gli astronomi, continuamente rapiti dalle stelle. Sempre questo pallino delle stelle. E quando guardando su la notte brilla coi suoi diamanti, l'astronomo punta il blu con il suo cuore che s'affatica e accende il ticchettio mentre si sperde nell'infinito. Pensa qualcosa lui e dice: è questa la vita. La notte buia sul foglio chiaro dove campeggia la geometria, la notte tutta da misurare, verificarne la simmetria. Ora che il mondo si è spento un po' e dorme sogni, ora è il momento di calcolare le angolazioni, di calcolare il firmamento. Chiaro dove campeggia la geometria, la notte è tutta da misurare, verificarne la simmetria. Ora che il mondo si è spento un po' e dorme sogni, ora è il momento di calcolare le angolazioni, di calcolare il firmamento. Riprendiamo l'intervista dopo l'ascolto di questo magnifico brano del nuovo album, bene, e Carmine sicuramente vorrà dirci qualche parola su questo lavoro che prende piede nel 2013. Sì, il disco appunto si chiama Bene, proprio perché viviamo in un periodo storico molto difficile in cui qualsiasi aspetto della società sembra andare a rotoli. Parliamo dell'aspetto economico, politico, sociale. E allora mi sembrava una buona idea invece dare una connotazione positiva a questo lavoro. Quindi bene, mi sembrava che suonasse appunto bene, e anche perché è una di quelle parole quasi inacchiappabili, se vogliamo, cioè è una parola fatta di aria, come fai a descrivere il concetto di bene? Però, nonostante questo, sai quando uno si alza la mattina e dice: caspita, ho trovato l'idea, ecco, mi ha fulminato questa cosa, questa immagine, questa parola, e soprattutto, ecco appunto, riconducendomi all'immagine, la copertina del disco invece riporta questo Cianoci su un telo verde, che invece fanno da, diciamo, fatta contrapposizione proprio alla parola stessa, al titolo stesso. Infatti gli schiaccianoci sono appunto delle leve che ci consentono di rompere il guscio di alcuni frutti, rompere il guscio delle cose e arrivare poi al bene, cioè al frutto di quello che vogliamo. Questo, anche questo, devo dire che è stato influenzato un po' dalle copertine dei Pink Floyd, da Storm Thorgerson, che ci ha lasciati almeno qualche anno fa, che è stato appunto il creatore di tutte le copertine dei Pink Floyd. Allora ci sembrava evocativa come immagine e ci sembrava bello rendere omaggio appunto a questa mente creativa. Carmine, bene, quindi prende piede nel 2013 e adesso lo spettacolo omonimo dello stesso album. Come mai? Sì, questo credo che sia dovuto a un'esigenza che uno avverte, perché poi il lavoro discografico ha una certa importanza nell'evoluzione proprio della ricerca di un musicista, in questo caso. E allora spesso e volentieri quella cosa che è stata così importante la si vuole continuare ad irrigare e a proporre alle persone, insomma, che ci ascoltano. Questo linguaggio sicuramente è un linguaggio anche questo già visto, come dire, fa parte della letteratura, insomma, della musica italiana, in sostanza, perché è uno spettacolo che parla di canzoni e che evoca degli amori improbabili, amori definitivi, insomma. Parla di sogni di versione, però tratteggia i veri protagonisti, che sono i musicisti, che si riscoprono amici inseparabili sullo sfondo di una città del nord come Milano, che apparentemente risulta fredda, però alla fine sa mostrarsi anche familiare. Cioè è uno spettacolo che parla di tutto quello che c'è dietro ai brani che compongono un disco, una sorta di flashback che immortala episodi precisi, aneddoti intorno a cui viene creato un pezzo, e come dicevi è tratto dall'omonimo album, che va a collocare, diciamo, questo spettacolo nella tradizione del teatro canzone di Gabber. È la prima volta che ti trovi di fronte a un lavoro del genere, Carmine? No, in verità no, perché nel 2008, subito dopo l'uscita del primo disco, avevo iniziato a fare una tournée estiva, soprattutto nel sud Italia, e poi per dare continuità a questa promozione ho deciso di partire da Palermo e fare il giro di tutta l'Italia per 4 mesi. Ho percorso un bel po' di chilometri, ho suonato nelle piazze, nei locali, e questa è stata un'esperienza in effetti molto forte. E allora anche in quel caso ho sentito l'esigenza di farne poi uno spettacolo che si chiamava Piazza d'Italia. Allora Carmine, noi ti ringraziamo per essere stati qui con noi su Clandestino Cid. Bene, lo spettacolo, le date? Sì, si partirà questo venerdì, quindi la prima replica sarà alla Mezzia Terme a Palazzo Nicotera, una cosa voluta dal blog Manifest e dal sistema bibliotecario Lamentino. Poi invece sabato sera si farà una replica a Crotone al Circolo Arci del Centro Città, e invece la replica si farà a Reggio Calabria al Malamente Cantello. Poi ci saranno altre date che però sono più in là, verso marzo, aprile, insomma ci saranno delle cose anche all'estero. Si farà lo spettacolo a Barcellona, poi a Firenze, Milano, insomma qualcosa ci sarà anche nelle Marche, nel centro Italia. Comunque un calendario che viene aggiornato continuamente, quindi rimanete sintonizzati sulle pagine Facebook, sui social, sul sito carminetorchia.it e troverete tutte le novità. Benissimo Carmine, noi ti ringraziamo per essere stati qui con noi questa sera su Clandestino Cid, speriamo anzi di rincontrarci nuovamente, non soltanto via web ma anche di persona, magari se è possibile organizzare per questa data di Lamezia. Volendoti augurare il meglio, ci lasciamo con naturalmente il primo pezzo, perché questo è davvero un inizio con il botto, diciamo, e andiamo ad ascoltare Ma che ne so di Carmine Torchia dell'album Bene. Salutandoti nuovamente Carmine, ti auguriamo il meglio, buona serata. Grazie a voi, e resistiamo, che resistenza è una bella parola. Ciao. Eccomi qui, avresti detto, finir così in questo letto, fra le lenzuola sudate bianche, tu che dispensi risposte stanche. I nostri amici mi hanno nel cuore, rispondi loro, hai in mano un fiore, ti lascio andare, pianto sommesso, non sai che fare. Lo fai lo stesso, dal buio emergi come una dea, come una donna, come un'idea. Nel corridoio sento i tuoi passi, sembra la spiaggia, la ghiaia, i sassi. Ma che ne so, ma che ne so. Buono, questo lo so, dammelo. Dammi il bicchiere, lo so non devo, passa il dottore, di che non bevo. Lasciami fare, ne ho proprio voglia, sul davanzale trema una foglia. Lo sanno tutti, qui in ospedale, che sono strano, non ti arrabbiare. Ho capito, a prima vista, ci sono detti, quello è un artista, ma che ne so, ma che ne so, il vino è buono, questo lo so. Questa. Che dire, Peppe, un artista a 360 gradi. Ringraziamo nuovamente Carmine per essere stato qui con noi su Clandestino Cid e diamo appuntamento al 6 febbraio Palazzo Nicotera, Lamezia Terme, con il suo primo spettacolo di bene, Peppe. Complimenti vivissimi, veramente un bel album, un bel pezzo. Oh. Vedo l'ora di ascoltare l'album, già qualcosina l'avevamo ascoltata, Ciccio, quando è stato ospite in passato, un anno fa. Quando... Manca a casa, ti assillo con l'astronomo, Peppe. E adesso abbiamo Carmela che vuole dire... Vuole salutare un, diciamo, il suo mito. Il suo mito, Carmela, vai, Carmela. Salutalo, dai. Vabbè, volevo dire qualcosa. Guarda, però devi parlare nel microfono. Niente, allora non parlare, Carmen. In questo momento non mi viene. Vabbè, volevo salutare Johnny Depp, sta cosa qua stupida, devo dire. Questa è. Pierpaolo, Pierpaolo, Pierpaolo. Va bene. Era Pierpaolo che voleva dire, non voleva dire nulla. Salutiamo Torchia, Carmine Torchia. Carmine, devi parlare nel microfono, se no non si sente. Salutiamo Carmine Torchia, visto che ci sono più probabilità che ci ascolti, a differenza di Johnny Depp. Mi saluto lui. Meglio Carmine che Johnny. Sicuramente. E niente, procediamo con la selezione musicale, Cicci. E poi... Sì, infatti, Carmela sembra che avesse tanto da dire, invece soltanto era un saluto. Tutto fumo e niente arrosto, qualcuno direbbe. E infatti è abbastanza arrossicata, Peppe. Comunque... Allora, prima di passare il pezzo, io volevo ricordare una cosa, Peppe, che sono attive le tessere 2015 per Emergency, Peppe. Una tessera è solo un rettangolo di carta, ma un rettangolo di carta che si trasforma in cure gratuite e di qualità per chiunque ne ha bisogno. Nei 6 paesi in cui stiamo lavorando, Emergency, a guardarla, in effetti un rettangolo di carta somiglia molto a un mattone, e un altro mattone per costruire insieme Emergency, Peppe. Grazie, Cecilia Strada. E niente, Peppe, mandiamo postiamo il link sulla nostra pagina Facebook. Ovvio. E vi porta direttamente alla pagina per fare la tessera. E ci sono dei costi che vanno dai... Aspetta che... Ok, ti ricordiamo che per fare la tessera ci serve una donazione, 12 euro se hai 25 anni o meno, 20 euro se hai 65 anni più, 30 euro se hai un'età compresa fra i 26 e i 64 anni. Se ne spendono così tanti soldi, Peppe, diciamo che per la ricerca, anzi per la cura gratuita, il diritto alla sanità, sono soldi spesi bene. Dona l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Devi parlare al microfono, Carmela, però. No, io voglio... Niente, io volevo dire a chi ci sta ascoltando, non lo so. Devi parlare nel microfono. Essere nella bocca. Volevo ricordare il libro di Henry De Luca. La parola contraria per il... che ha scritto appunto dopo il suo processo, cioè per il suo processo, per le accuse ricevute dopo la manifestazione Notav, per la semplice parola poi sostanzialmente sabotare. Poi se Ciccio vuole leggere qualche cosa adesso al volo, l'abbiamo. Allora sì, ricordiamo che appunto l'imputato Henry De Luca è stato accusato comunque di sabotaggio, soltanto perché nelle sue parole appunto compare la parola sabotaggio, e giustamente Henry, nella difesa del popolo della Val di Susa, ricordiamo, Peppe, uno dei stupri non soltanto a livello naturale, territoriale, ma anche comunque economico nel nostro paese, un'opera inutile. Un'opera inutile. Soldi buttati per diciamo cose inutili, quando potrebbero essere investiti per costruire ospedali, altre cose utili, nell'istruzione, non lo so. Nel disparo due cose a caso. Due cose che mancano a caso. Diciamo 106 ionica. Anche perché no. Vabbè, piano piano. Comunque Carmela ci aveva portato qualche pezzo del libro La parola contraria, uscito a gennaio di questo mese. E allora, l'accusa contro di me sabota il mio diritto costituzionale di parola contraria. Il verbo sabotare ha vasta applicazione in senso figurato e coincide con il significato di ostacolare. I pubblici ministeri esigono che il verbo sabotare abbia un suo significato. In nome della lingua italiana e del buon senso, nego il restringimento di significato. Bastava consultare il vocabolario per archiviare la denuncia sballata di una ditta francese, al quale di buon grado una condanna penale, non una riduzione di vocabolario. E questo, Peppe, perché comunque Henry De Luca, rinnovando il suo invito comunque di lotta verso la TAV, sottolinea il fatto che comunque ancora in Italia si perseguita comunque con la pena nella libera informazione, Peppe, diciamo che anche una parola può essere quella contraria, detta sbagliata, a colpire comunque chi sta sempre più su. Se qualcosa non va bene, giustamente va sicuramente liso e tolto fuori. Purtroppo... No, io Ciccio mi sento, perché il mio microfono è più alto del tuo. Comunque, che stavo dicendo? Purtroppo il libero pensiero non è contemplato in Italia. Quando qualcuno... c'è una voce fuori dal coro, viene prontamente sedata, Ciccio, distrutta. Quindi sosteniamo Henry De Luca, acquistando il suo libro, Carmela, per esempio, e portiamo avanti il suo pensiero anche. E, cambiando argomento, Ciccio, volevo fare i complimenti, dare il benvenuto al nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Ah, infatti, beh. Che è un grandissimo esponente della DC. Ed è, con questa elezione l'Italia supera a destra la Città del Vaticano. Perché, Beppe? Cioè, Papa Bergoglio è molto più a sinistra del del Presidente della Repubblica, che viene accusato di essere comunista addirittura da Berlusconi. Vabbè. Detto questo, procediamo con il prossimo pezzo. Sì, procediamo con il prossimo pezzo, ormai in chiusura, e niente, andiamo anche a spulciare le ultime notizie che ci arrivano al web. Dopo questo pezzo torneremo. Ascoltiamo un pezzo del 2004 dei Verdena, Ciccio, un pezzo che si chiama Elefante. Non lo conosco. Ciccio dei Verdena si ritorna con le nostre ultime notizie. Sì, Peppe, la notizia, vabbè, che volevamo comunque denunciare è quella della ragazza che nella notte di sabato è stata stuprata nei pressi di Rende, una ragazza di 25 anni. Per ritorno di una festa privata è stata accompagnata a casa da un ragazzo il quale all'inizio sembrava tutto cioè, gentile, ha accompagnato la ragazza a casa e tutto. Una volta scesi dalla macchina sembra ancora più gentile, ha voluto accompagnarla al portone. Una volta che la ragazza ha aperto il portone pensa che questo ragazzo, non so, abbia avuto proprio un colpo di forza, abbia buttato la ragazza dentro e ne abbia abusato per l'ennesimo abuso, comunque l'ennesima denuncia di stupro qui nella zona di Rende, fatti addoloranti. Peppe, purtroppo capita troppo spesso queste notizie, e quindi ci possiamo riallacciare con la nuova politica del rettore, che ha inserito le telecamere all'interno della, non so se l'hai saputo Ciccio, no, all'interno del centro residenziale. Se vai sul sito dell'Unical, c'è un link in cui puoi vedere le nuove webcam inserite all'interno del centro residenziale per aumentare la sicurezza, quando basta semplicemente vivere i posti, no? Vivere i posti. È stato trasformato in un dormitorio che alle 10 di sera chiudono il cancello come se ci fossero le galline. Chiudono tutto e quindi poi la sicurezza la inseriscono mettendo telecamere. Queste telecamere che inutili, Ciccio. Si parla anche di telecamere usate per il turismo, dice, per fare vedere ai nuovi iscritti com'è l'università. Ma non lo so, Ciccio, queste telecamere io sono abbastanza contrario. L'unico modo per rendere sicuro un posto è viverlo, rendere un posto vivo anche la notte con gente che si diverte, sta insieme, non dorme solo la notte lì in quei posti. Ma appunto, sì, per creare comunque dei posti dove la socialità viene presa al primo posto, e sicuramente sviare dall'idea di dormitorio, sviare dall'idea comunque di un centro deputato soltanto agli alloggi, ma anche comunque ricordiamoci c'è tanta vita da far godere. Si parla tanto di comunque incremento e di fare comunque un cross bridge fra le varie nazioni, Peppe, ma si tende sempre a isolare, anche perché ricordiamolo, con la nuova politica, Peppe, tutti i ragazzi stranieri sono stati portati al centro residenziale, mentre qui ai quartieri Martinson sono stati deputati gli italiani, Peppe. Una manovra che io non condivido, perché comunque si parla, possiamo chiamarlo ghetto, un ghetto, sì, non c'è l'integrazione giusta, non c'è comunque la giusta condivisione. Niente, Peppe, siamo arrivati alla fine di questa puntata della 45esima, anzi ci è andata bene, Peppe. Sì, sembrava che come al solito ci fosse una tempesta di cazzi magnetici, poi in realtà questa tempesta di cazzi magnetici si è dimostrata meno potente del previsto. E meno potente dei nostri. Delle nostre potenzialità, naturalmente. Diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre sì, 22 strano, ore. Come strano? Dico strano sentire dire diamo appuntamento a martedì prossimo, però clandestino ora va in onda di martedì. Di martedì, Peppe. Martedì prossimo, sì, ci saremo. Ci saremo sempre alle 22 su Fuori Onda Radio, Peppe. Noi ci saremo se non si scatena un'altra tempesta di cazzi magnetici. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, tutti presenti in aula. A martedì prossimo. Saluti e baci a tutti, no? Quanti. Chiudiamo con un pezzo degli Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Close your eyes until the sunlight dies. In your head a thousand stars. Through the darkness you can see a light. And if they steal your still in mine, I want to believe in you, and I heard you. You something seen, a truth there's no other. I want to believe in you, dear. On Sunday, tried to disguise, and I could take you a million miles.